Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Tutto è pronto per l'inizio di Juventus-Lazio a 11.000 km dall'Italia. Allarga Lichtsteiner per Sturari, il cross dalla parte opposta, il colpo di testa di Mandžukić e si fa perdonare per l'errore precedente. La Juventus è in vantaggio, primo gol ufficiale per il gigante croato. Mandžukić da fondo campo, il colpo di testa, il pallone che arriva dalle parti di Dybala e bagna nella maniera migliore il suo debutto in bianconero con un sinistro imprendibile per Marchetti sull'assist di Pogba. Dybala, Juventus 2, Lazio 0. Era iniziata così qualche mese fa a Pechino la stagione del nostro calcio, lo ricorderete, con la finale di Supercoppa vinta dalla Juventus contro la Lazio. Certo, non una novità, quella trasferta asiatica per il nostro football, sempre in cerca di liquidità e nuovi mercati. E il legame con la Cina si fa sempre più forte. Viste le altre novità, queste sì, attese nell'assetto societario di due big del nostro calcio come Inter e Roma. E allora, proprio al presente e al futuro del calcio cinese, vogliamo guardare oggi, a pochi giorni dal varo da parte della Federcalcio di Pechino, di un ambizioso piano di sviluppo che parte da quest'anno per arrivare, pensate, al 2050. Ne parliamo col nostro ospite, Liu Pai, amico, collega di Radio China International ed esperto del rapporto tra calcio italiano e cinese. Liu Pai, che è in diretta da Pechino. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario e grazie ai nostri ascoltatori. Liu Pai, programma molto ambizioso quello varato dalla vostra Federcalcio. Ecco, come nasce? Innanzitutto bisogna dire che il nostro presidente Xi Jinping è un grande appassionato per il calcio. Sin dal suo insediamento nel 2013 ha avanzato tre obiettivi: portare la nazionale cinese nei mondiali, organizzare i mondiali in Cina e fare alla Cina alzare la Coppa del Mondo. Ecco, con questa passione del nostro presidente, il governo cinese si è subito messo ad elaborare una serie di piani e programmi per lo sviluppo del calcio in Cina. E nel 2015 è uscito il primo programma sulla riforma del settore calcistico, caratterizzato da una semplificazione istituzionale, con l'obiettivo di dare più flessibilità e autonomia alla federazione calcistica. Allora, in questo contesto è uscito giorni fa questo ultimo progetto, che rappresenta il primo schedule e la prima roadmap a medio e lungo termine per lo sviluppo del calcio in Cina, con anche dei obiettivi molto concreti. Ecco, questo documento da questo punto di vista ha un grande significato. Quali sono in concreto questi obiettivi? Allora, generalmente questo progetto ha tre obiettivi. Quello a breve termine, ovvero dal 2016 al 2020, realizzare 20.000 scuole calcio con 30 milioni di praticanti del calcio tra gli alunni e 50 milioni di praticanti tra tutta la popolazione. La costruzione di 70.000 campi da calcio in tutto il paese, in modo che ci siano 0,5-0,7 campi liberi per ogni 10.000 persone. E poi c'è un obiettivo anche a medio termine, ovvero dal 2021 al 2030, ovvero realizzare un supremo livello dell'organizzazione e la competitività del campionato calcistico nazionale. La nazionale maschile deve entrare nei primi posti della graduatoria in Asia, quella femminile deve ritornare ad una squadra di primo livello in ambito mondiale. Ogni 10.000 cinesi devono godere un campo da calcio libero. E poi c'è questo obiettivo a lungo termine, ovvero dal 2031 al 2050. Con questo obiettivo la Cina dovrà diventare una superpotenza di calcio e il calcio sarà diffusissimo in tutto il paese. Ecco, questi sono gli obiettivi principali di questo progetto. Beh, auguri mi viene da dire, eh? Ma da che basi partiamo? Qual è il livello del calcio in Cina? Quando si parla del calcio in Cina si parla ovviamente di tre aspetti. Il primo elemento è il campionato. Allora, grazie agli investimenti sempre più consistenti da parte dei club calcistici cinesi, il campionato professionale del calcio della Cina, ovvero la Superlega Calcio Cinese, ha visto negli ultimi anni un rapido sviluppo sia da un punto di vista dell'influenza sia da quello dei risultati. In Cina anche Marcello Lippi ha lasciato un'impronta. Adesso nel campionato ci sono almeno 7 club con una capacità economica straordinaria. Basta pensare all'acquisto in quest'anno di Guarin dallo Shanghai Shenhua e di Lavezzi e Gervinio dal Hebei Fuordun. Quindi possiamo dire che ora il campionato cinese è entrato ormai in un'epoca che conoscete bene da 7 sorelle. E poi, parallelamente, anche i risultati delle squadre cinesi in campi internazionali hanno realizzato un salto di qualità. Basta pensare che il Guangzhou Evergrande, prima allenato proprio da Lippi e ora da Scolari, ha vinto 2 Champions League asiatica in 3 anni. E per le nazionali, Yupai, a che punto siamo? La situazione è che in questa nazionale, nel centrocampo e in difesa, ci sono dei giocatori abbastanza recenti, per esempio il difensore del Guangzhou Evergrande, Zhang Linpeng, ex allievo di Lippi, è stato accostato anche all'Inter, al Chelsea, al Real Madrid, ovvero questi club importanti. Però in attacco, siccome nel campionato i club usano spesso dei campioni stranieri, quindi gli spazi per gli attaccanti cinesi nel campionato sono spesso pochi. Questo ha fatto sì che nella nazionale mancano buoni attaccanti, questo l'ha detto anche Marcello Lippi in una mia intervista precedente. E quindi per un certo livello i risultati della nazionale maschile sono un po' penalizzati da anni da questo fattore. Poi parlando della nazionale possiamo parlare anche della nazionale femminile che 20 anni fa entrò addirittura nella finale dei Giochi Olimpici di Atlanta. E in questi anni ha visto un calo purtroppo di livello, prevalentemente a causa di uno sviluppo arretrato del campionato femminile. Comunque in quest'anno la nazionale femminile cinese, composta da tante giovani e brave ragazze, è riuscita a entrare nei Giochi Olimpici di Rio. Quindi un ritorno dopo 8 anni alle Olimpiadi. Quindi alle ragazze facciamo un in bocca al lupo. Questo lo stato dell'arte, come si dice. Ma Yupai, pensi davvero che il nuovo progetto porterà i risultati ipotizzati? Ah, questo noi... Allora, io personalmente credo che con questo ultimo progetto calcio speriamo che sia applicata a 360 gradi e totalmente. Stiamo parlando di un progetto veramente enorme, quindi non è facile applicarlo. Però la politica del governo cinese è spesso caratterizzata da una forte capacità di applicazione, quindi io personalmente sono piuttosto fiducioso per la realizzazione del sogno calcistico del nostro presidente Xi Jinping. E intanto vorrei aggiungere un'altra cosa che riguarda la cooperazione tra Cina e Italia nel settore del calcio. E seguendo le attività di scambio tra i due paesi ho notato che l'Italia da parte sua ha manifestato un forte interesse di entrare nei vari progetti calcio della Cina e la carta da giocare sta nella formazione dei giovani. Ora sono stati stretti già dei gemellaggi tra i club dei due paesi, per esempio lo Yanbian, squadra neopromossa nella Superlega cinese, ha siglato già un accordo con il settore giovanile dell'Atalanta, con cui ogni anno una 30 di bambini del settore giovanile dello NBA va al centro sportivo dell'Atalanta per una formazione periodica. E poi c'è anche un progetto trilaterale per la formazione di tecnici cinesi che si chiama Accademia del Calcio, attivato nello scorso anno dal Pavia Calcio di proprietà cinese, acquistato nel 2014 dall'imprenditore cinese Zhu Xiaodong e dall'Associazione Allenatori Calcio Italiana guidata dal presidente Renzo Ulivieri e dall'Università di Pavia. Quindi questo progetto calcio della Cina sta portando nuove opportunità per una, diciamo, come definisce il nostro presidente Xi Jinping, una diplomazia calcistica tra Cina e Italia. Insomma, Cina e Italia anche nel calcio sempre più vicine, con l'augurio di giocarci magari proprio nel 2050 alla finale del mondiale, ma sempre con la vittoria degli azzurri, Vabbè, però vedremo, insomma. Intanto Yupai, giornalista di Radio China International, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario e grazie ai nostri ascoltatori. Ora una breve pausa, poi restiamo in Asia per raccontarvi un'incredibile pagina nella storia del calcio. Olimpia, Miti e verità dello sport. Dalla Cina al Vietnam, dal calcio di oggi a un'incredibile avventura che lega il football con la storia del continente asiatico e non solo. Restiamo in Asia oggi a Olimpia per raccontarvi il viaggio avventuroso e improbabile che anche in quel continente fecero i Dallas Tornado, a cavallo tra il 1967 e il 68. Chi erano, anzi cosa erano, i Tornado di Dallas? Era quella texana, una delle squadre della nascente NASL, la lega di calcio statunitense che sarebbe poi stata dominata dai New York Cosmos di Pelé, Chinaglia e Beckenbauer prima di fallire di lì a pochi anni. Solo che la formazione doveva essere creata di fatto da zero e per farlo il direttore tecnico di Dallas, il serbo Bob Capp, scelse il modo più sorprendente ed estemporaneo. Una tournée di 7 mesi, 25.000 miglia, 26 paesi e 45 partite giocate, che portò i Tornado da Dallas a Papeete, a Tahiti, attraverso Spagna, Marocco, Turchia, Cipro, Iran, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Giappone, Singapore e qualche altro paese che adesso quasi dimentichiamo. Una tournée calcistica, certo, ma un vero e proprio romanzo picaresco per quel gruppo di ragazzi poco più che ventenni che vissero in quei mesi avventure che mai più avrebbero rivissuto nella loro vita. Che non sarebbe stato un viaggio come tutti gli altri lo capirono ben presto. Diretti da Cipro ad Atene, la squadra perse l'aereo e si salvò la vita. 45 minuti dopo il decollo, una bomba fece saltare in aria il velivolo, uccidendo le 63 persone a bordo, ma non l'obiettivo dei terroristi, il generale greco Georgios Grivas, che salì poi a bordo dell'aereo successivo, insieme ai Dallas Tornado. Poi ecco gli interminabili viaggi in pullman in Iran, poi in Pakistan, poi ancora in India. Attraversare l'India fu quasi un viaggio nel viaggio. Arrivando dal Pakistan a bordo di un vecchio pulmino, i Dallas Tornado al confine dovettero lasciare il bus e farsi un chilometro a piedi fino alla dogana tra soldati ribelli che li insultavano. E non tutti ebbero il visto d'ingresso. Un gruppo di giocatori dovette rimanere al confine 2 giorni, senza cibo e col rischio di venire assaliti dalle tigre che circondavano la zona. E a Calcutta furono di fatto segregati per alcuni giorni in albergo per non meglio precisati motivi di sicurezza. Ma forse il momento chiave dell'intero viaggio fu l'arrivo a Saigon, in Vietnam, a poche settimane da quell'offensiva del Tet che, se non decise le sorti del conflitto, fu di certo momento centrale per spostare l'ago psicologico del confronto bellico a favore dei Vietcong, che si contrapponevano proprio agli americani schierati a supporto del governo sudvietnamita. Sentite alcuni giocatori dei Dallas raccontare oggi alla BBC quello che provarono allora arrivando in città. While you're in Saigon, there's helicopters, probably 4 or 5 helicopters in the air all at one time, which, you know, there's something going on somewhere. And down in the town you couldn't stand still, we were told, don't stand in groups of more than 3. Ebbene, in questo contesto i Dallas Tornado riuscirono a giocare a calcio a Saigon. Le partite contro una rappresentativa locale finirono 1-1 e 2-2, ma tutto intorno a tutt'altro si pensava che non al football. Ecco la testimonianza, rilasciata sempre alla BBC, dell'attaccante olandese di Dallas Tornado, Von Stoffels. The most frightening I found was Saigon. I mean, it was absolutely strange. Era strano essere su una barca dell'esercito con alcuni soldati americani che nel frattempo scaricavano le loro mitragliatrici in acqua e tu potevi vedere le pallottole che affondavano nel fiume, dice Stoffels. E a 20 miglia da lì, da dove stavamo per giocare a calcio, esplodevano le granate. Era davvero terribile, era davvero spaventoso. Due settimane dopo che ripartimmo, a Saigon scattò l'offensiva del Tet. Fu terribile. E anche in campo la tensione era palpabile. Ricorda un altro reduce di quella tournée, di quelle partite. I felt threatened in Saigon during the game because on the side on the running track was American soldiers. Provai davvero paura durante quelle partite a Saigon, ricorda questo calciatore. Perché a bordo campo, mentre giocavamo, c'erano molti soldati americani a far la guardia. Ed erano armati, non guardavano verso il campo di gioco, ma verso le tribune, verso la folla, per proteggerci. E quando il pallone usciva dal campo, noi stessi dovevamo andarlo a riprendere. E ci trovavamo in mezzo tra la folla e i soldati armati. E solo l'idea che potesse accadere qualcosa, che potessero sparare, era terrorizzante. A fine tournée, arrivati a Tahiti, i Tornado rientrarono in Texas, pronti, si fa per dire, a disputare il loro campionato. Il lungo viaggio, i pericoli attraversati e i rischi corsi, le tensioni accumulate presentarono il loro prezzo da pagare poi in campo. All'esordio contro gli Houston Stars, i Tornado vennero spazzati via con un netto 6-0. E il bilancio a fine stagione non fu molto migliore per i ragazzi di Bob Cupp. Appena 4 vittorie, 28 sconfitte, meno 81 di differenza reti. Ma più che i numeri, è quell'incredibile viaggio a rendere ancora oggi indimenticabili i Dallas Tornado. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.